Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. They are doing the 1 kilometer. These are under 10 boys. Gli altoparlanti che gracchiano musica, incitamamenti e ordine d'arrivo. Il vento fresco dell'altipiano che attenua la calura del mezzogiorno. Centinaia di bambini e poi adolescenti e ancora runner professionisti che si alternano senza sosta al nastro di partenza. Poi all'arrivo, poi ancora sul podio. Un rito, quello del Discovery Kenya, la manifestazione ideata 25 anni fa dal tecnico e medico bresciano Gabriele Rosa, che è ormai tradizione qui. Per un giorno è Eldoret la capitale del Kenya, o almeno di quella parte del paese che costruisce il proprio futuro correndo. Eldoret è nel cuore della Rift Valley, l'immensa distesa verde da cui ebbe origine la specie umana. Qui, sugli altipiani, dai 2000 metri in su, le baraccopoli di Nairobi sembrano lontane, così come solo attutita arriva l'eco della vita mondana sulla costa, Malindi e Mombasa, e delle incursioni delle milizie islamiche lungo il confine con la Somalia. Qui la povertà è dignitosa e vissuta persino col sorriso. La terra e l'agricoltura, il cuore dell'economia familiare, la corsa, l'occasione per cambiare il destino di donne, uomini, famiglie, comunità, passo dopo passo, chilometro dopo chilometro. Storia d'amore lunga e appassionata quella dei keniani con la corsa, ma a ben vedere più complessa e difficile la relazione con la sfida su strada per eccellenza, la maratona. A lungo vincenti nel mezzofondo su pista fino ai 10.000 metri, ma ben più raramente, almeno fino agli anni 90, protagonisti sui 42 km e 195 metri, gli uomini degli altipiani, pur con alcune straordinarie eccezioni, con l'Italia ancora fondamentale crocevia. Wakihuru is full of running there and is beginning now to pull away. È la calda estate romana del 1987 che vede Douglas Wakihuru laurearsi campione del mondo proprio nella maratona. L'attacco decisivo del 24enne di Mombasa scatta a pochi chilometri dall'arrivo, sotto il colonnato di Piazza San Pietro. L'ingresso nello stadio olimpico è trionfale, per lui e per il nostro Gelindo Bordin, splendido terzo alle spalle del tanzaniano Salah Argento. Wakihuru, dominatore della maratona, ecco fa il suo ingresso in questo momento, il keniano Wakihuru, vincitore della maratona del campionato mondiale di Roma, ed ecco il gibutiano Salé che è secondo, medaglia d'argento, ecco Bordin che è riuscito a scavalcare Moraghetti, Bordin è terzo, si conclude la gara in 2 ore 11 minuti e 47 secondi per Wakihuru, e conclude la sua fatica anche il gibutiano Salé che è secondo, ed ecco Gelindo Bordin terzo, medaglia di bronzo. Bordin si rifarà con gli interessi un anno dopo, vincendo a Seul l'oro olimpico proprio davanti a Wakihuru. Each one of my races has a historic background. Tutti i miei successi sono stati in qualche modo storici, ricorda oggi Wakihuru. In particolare quello del 1987, perché fu il primo oro mondiale di un atleta keniano nella maratona. Ma sarà alcuni anni dopo, e precisamente nel 1993, ai campionati mondiali di Stoccarda e sui 10.000 metri, che avverrà un fatto decisivo per lo sviluppo della scuola keniana della maratona. Now Gebrselassie coming. Tanui's 4 meters in front. Gebrselassie's coming at him. La finale dei 10.000 di quei mondiali è entrata dritta dritta nella leggenda. Il grande keniano Moses Tanui duella con un altro campione straordinario, l'etiope Haile Gebrselassie, che, toccandogli il tallone, quasi gli sfila una scarpa. Tanui resiste, si libera della scarpa ormai inutile, prova un disperato attacco, ma viene poi bruciato in volata da Gebrselassie. Dopo l'arrivo il keniano, già allora allenato da Gabriele Rosa, si avventa sul rivale, protesta in tutti i modi, ma la giuria conferma il risultato della pista. L'oro va a Gebrselassie. Here's Chelimo coming home for third. Gabriele Rosa ricorda senza falsa retorica quei giorni e quei momenti e quell'amarezza che spinse Tanui verso la maratona, così come da tempo suggeritogli dal suo stesso allenatore. Quando nel 90, per il primo anno, sono venuto in Kenya, il primo atleta che ho seguito era Moses Tanui, che era un talento, ma non aveva vinto ancora niente, è arrivato sempre bene nel cross, ma aveva ancora vinto un titolo. E ha avuto la fortuna di vincere i mondiali a Tokyo nei 10.000 metri. Io però gli ho detto: Moses, guarda che io non mi interessa la pista, io ho la patologia grave della maratona e voglio vedere se riesco a impostare il discorso della maratona. Nel 93 lui a Stoccarda ha perso 10.000 perché Gabriele Selassie, che gli è stato nel culo tutta la gara, gli ha tolto la scarpa. Lui doveva partire ai 200 metri, si è incazzato, è partito ai 400, ha buttato via la scarpa e Gabriele Selassie l'ha battuto per pochi centesimi. Mi ha detto: adesso facciamo la maratona. Ha detto: bravo. Dalla delusione per la sconfitta, quindi, alla creazione di una vera scuola di maratona, attraverso la formazione di un primo piccolo nucleo di atleti disposti a lavorare proprio con la maratona come primo obiettivo. L'inizio è difficile, Tanui si impegna in prima persona come atleta, ma anche come leader a fianco di Rosa. Lui è riuscito a radunare 10-12 ragazzi. Ha detto: dove andiamo, Moses? Andiamo a Cap Carol Hotel. Io ho già visto questo territorio, mi era piaciuto, nessuno si allenava allora. Era un vecchio albergo coloniale molto bello. Abbiamo provato a allenarci e sono riusciti a fare abbastanza risultato, ma siamo andati a Boston. Quel primo gruppo di atleti ottiene risultati importanti. Il team guidato da Gabriele Rosa si amplia e oltre al training camp di Kaptagat si crea un altro centro di allenamento per offrire agli atleti assistenza e strutture per dedicarsi in modo professionistico all'allenamento stesso. Sono venuti fuori Sammy Cullick, che ha fatto 2:4:56, Cebet, Joseph Cebet, che è un atleta che ha vinto, primo che ha vinto contemporaneamente Boston e New York nello stesso anno. Poi si è perso per motivi di alcol. Insomma, 3-4 atleti molto forti. A quel punto mi sono moralmente impegnato a costruire il training camp. Abbiamo comprato il terreno e abbiamo costruito questo secondo training camp. Moses Tanui vivrà sulla maratona una seconda giovinezza, trionfando per ben due volte a Boston. Dal team di Gabriele Rosa arriveranno poi altri straordinari campioni, come quel Samuel Vanjiru che a Pechino 2008 regalerà al Kenya il primo trionfo olimpico sulla maratona, per poi morire 3 anni dopo, appena 26enne, in un tragico e oscuro incidente domestico. Sammy Vanjiru è il ganador, 2:06:32, nuovo record olimpico di Sammy Vanjiru. Il team di Gabriele Rosa continua ancora oggi a produrre campioni mondiali e olimpici, oggi che gli atleti keniani trionfano in oltre l'80% delle maratone internazionali. Quanto tempo sembra passato da quella scarpa volata via a Stoccarda nel 93 nel duello tra Tanui e Gebrselassie. Oggi il team Rosa ha realizzato un altro training camp intorno ai 2700 metri della cittadina di Kapsabet. Lo scenario è cambiato rispetto agli inizi e la concorrenza sul campo è decisamente aumentata, sottolinea il medico e allenatore bresciano. Adesso in Kenya ci sono 100 training camp. Nessuno li costruisce, tutti li affittano, però noi abbiamo obbligato tutti a investire almeno qualcosa. Almeno dare assistenza a questi ragazzi, dando loro un posto dove dormire, dove mangiare e avere un riferimento tecnico. Lo riconoscono tutti che è stata una cosa che ho dovuto forzare io, perché io ho sempre detto: non posso gestire 2000 atleti. Noi ne abbiamo 150, abbiamo le strutture per farlo. Siccome ci sono 1000 talenti in Kenya, gli altri ne hanno altrettanti e noi siamo quelli più organizzati. Ora una breve pausa, poi continueremo il nostro viaggio in Kenya nella culla dei grandi campioni della maratona. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Olimpia, miti e verità dello sport. La musica della festa che dagli altoparlanti si riversa nelle strade di Eldoret, i bambini che corrono a perdifiato verso il traguardo e poi ancora ansimanti verso l'autobotte dell'acqua potabile, che anche qui sugli altopiani keniani è un bene prezioso. E poi i parenti, i familiari, con le loro urla allegre celebrano la vittoria dei più bravi, ma consolano anche chi taglia il traguardo lontano dai primi. Il Discovery Kenya accende il giorno della festa a Eldoret da 25 anni. Era il 1990 quando Gabriele Rosa, medico e allenatore bresciano, creò questa manifestazione per avviare i talenti keniani alla corsa e alla maratona, sua grande passione e interesse in particolare. Ancora oggi è questo il senso principale delle competizioni che nel giorno dell'evento vedono la partecipazione dei professionisti. Ma al tempo stesso le gare che vedono impegnati bambini e bambine e poi adolescenti hanno anche l'obiettivo di ribadire i principi di un modello educativo che vuole avvicinare all'attività sportiva professionistica, certo, ma anche essere integrato col sistema scolastico e alla comunità che lo circonda, come ci spiega lo stesso Rosa mentre si gode le gare lungo il percorso. Oggi è un giorno di festa, festa per loro, e abbiamo deciso di allargare man mano sempre ai ragazzi giovani perché devono capire che il mondo della corsa è il loro mondo, che Kenya ha la cultura della corsa, ha la cultura anche della disponibilità ad allenarsi, a impegnarsi e tutto, per cui è proprio integrata con il loro tipo di vita e finalmente sta migliorando anche grazie alla corsa e alle loro condizioni economiche e sociali. Questi bambini non ci interessano come talenti, è solo un'opportunità per loro di divertirsi e la selezione non parte da loro. Parte dai 14 anni in poi e anche lì non li selezioniamo per correre ma per metterli nelle scuole. Quelli bravi, quelli che poi non hanno avuto distorsioni tipo il bere che a volte succede in Kenya, hanno gratificato se stessi ma anche con loro esempio il territorio in cui vivono, aiutando molti giovani a entrare in questo mondo. Anche le famiglie hanno capito che la corsa è uno strumento di emancipazione. Le ragazze fino a poco tempo fa non erano lasciate libere di correre. Sono ancora in ritardo non dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle selezioni, del reclutamento, ma sta crescendo il mondo delle ragazze che corrono, perché una volta le ragazze erano tenute in famiglia perché erano fonte di lavoro, fonte anche di reddito, perché nel momento in cui si sposavano ricevevano dalla controparte una dote per la famiglia che era una forma di piccola ricchezza e loro avevano pure di perdere questi due vantaggi. Adesso hanno capito che il vantaggio vero, se la ragazza è brava viene dal correre e stanno crescendo. Bambini, famiglie, talenti, ma anche campioni affermati capita di incontrare lungo il tracciato del cross country del Discovery Kenya. Asbel Kiprop, 27 anni, tre volte campione mondiale e una volta olimpico sui 1500 metri, è uno di questi. Quando vedo questi bambini di appena 6 o 7 anni alla partenza mi emoziono, ci dice Asbel, perché penso a tutta la strada che abbiamo fatto in questi 25 anni, penso a come conciliano la scuola e lo sport e penso anche che qualche anno fa anch'io ero tra loro e anch'io ho mosso qui i primi passi. E credimi, mi fa sorridere l'idea che proprio qui non sono mai riuscito a vincere, ride divertito. Il Discovery Kenya è anche l'occasione preziosa per ammirarli da vicino, i campioni keniani. E il Kenya è anzi ormai da tempo meta di molti atleti stranieri, che su questi altipiani cercano condizioni di allenamento ideali, ovvio, ma anche stimoli, esempi, metodologie. Non sorprende quindi trovare lungo il percorso della gara anche Soufiane El Kabouri, 22enne mezzofondista azzurro di origine marocchina. Lo spettacolo in scena davanti ai suoi occhi non può non portarlo a evidenziare le differenze con quanto accade in Italia. Qua la differenza è che magari esco a allenarmi la mattina presto, vedo già i bambini che corrono per strada, giocano scalzi con la terra, no? Non so, venire qua e correre il cross scalzo, cioè per loro è un divertimento, no? Invece da noi vedi i bambini, non li vedi mai, li vedi d'estate, d'inverno sono tutti a casa a giocare con la PlayStation, no? Quindi qua non si pongono dei limiti, invece da noi abbiamo sempre paura di qualcosa. Questo è un gran tempo. Stanley, not too fast, eh? Paura davvero non sembra averne Stanley Biwott, classe 1986. È il vincitore dell'ultima maratona di New York e il grande favorito, una volta ottenuta la qualificazione, per la maratona olimpica di Rio de Janeiro. Esperienza eccezionale quella di poterlo ammirare durante un allenamento in pista nell'impianto della Barton University sotto gli occhi dello stesso Rosa, per l'occasione attento allenatore e cronista. Maybe one not so fast, finish the last one, eh? Five first two is very fast. Oggi abbiamo visto tutto un gruppo molto organizzato, molto strutturato, che è importante nell'allenamento della maratona. Il leader del gruppo è Stanley Biwott, che ha fatto una progressione su 6-2000 molto importante. Era un allenamento test un pochettino, ma non per fare dei tempi incredibili, correre molto più forte, ma sarebbe stupido fargli sprecare energie per andare più forte. Questo ragazzo ha vinto New York, è uno dei favoriti per le Olimpiadi. Lui, Stanley, correndo, sta costruendo il suo presente, ma anche il suo futuro. Non solo vincendo, ma anche come leader del training camp di Capsabet, in cui è riferimento anche per i compagni di allenamento. In Kenya la corsa è parte della cultura popolare, ci sono tanti talenti, ci racconta. Per me questa è una stagione importante, spero di qualificarmi per le Olimpiadi per rappresentare il mio paese a Rio. Cosa preferisco tra la vittoria alle Olimpiadi e il bis a New York? Magari entrambi, sorride. Campioni, talenti straordinari, certo, ma sempre inseriti nel contesto sociale e che attraverso la corsa della comunità stessa diventano leader. Anche perché diventare un epicentro del running fa crescere anche l'intera comunità. Non stupisca allora che nel piccolo villaggio di Capsite, a fianco del training camp, gli abitanti abbiano edificato una chiesa, frutto anche degli investimenti fatti per dotare il centro delle necessarie infrastrutture. È lì che ci accoglie padre Biwott, un sacerdote cristiano che ci descrive quelle che sono le principali necessità di un piccolo villaggio come questo, con appena qualche centinaio di abitanti. Actually, sometimes the roads are not passable, especially when there is a heavy rains. Non è raro che qui le strade siano impraticabili, soprattutto quando piove, spiega padre Biwott. E quella di ottenere trasporti adeguati è una sfida ancora tutta da vincere. Ma qui siamo abituati a vivere in modo semplice, con poco, in una regione pacifica in cui le varie confessioni cristiane convivono senza grandi tensioni, con una forte unità. I cori degli alunni della scuola di Capsite, collegata al training camp, ci accompagnano verso l'ultima tappa del nostro viaggio. Il binomio allenamento e scuola sembra inscindibile ed è anzi il fulcro della preparazione di chi forse non sarà un campione, ma di sicuro dovrà essere cittadino responsabile della propria comunità, del proprio paese. Sono centinaia gli studenti e gli alunni di ogni età che ci accolgono a Kaptabuk, a circa 400 chilometri da Nairobi, in una delle aree più povere del Kenya, come ci spiega Gabriele Rosa. Qui siamo nel territorio dei Pokot, che sono considerati la popolazione più povera del Kenya. È una scuola che esiste da tempo, noi abbiamo aiutato a livello di computer, di tecnologie e anche a spianare un po' questo prazzo, un po' di robe dei banchi e altre robe. Ogni anno veniamo, diamo un contributo che loro destinano a cose che interessano loro e abbiamo l'insegnante, uno dei direttori qui che è anche un allenatore, segue i ragazzini più bravi, quelli che fanno le gare, diciamo, under 14 e poi dopo da qui vanno alle scuole secondarie, però qui ci sono talenti enormi, erano molto lontani dal centro, per cui non sarebbero mai riusciti a mettersi in mostra, invece adesso gli aiutiamo anche ad andare a fare le selezioni, poi a fare i nazionali a Nairobi delle varie categorie. Così, passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, corsa dopo corsa, il Kenya costruisce i campioni di oggi e i cittadini di domani. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.